carne di cibo e contemporaneamente mi vorrei scusare già adesso per il mio povero italiano. Questa volta ho usato di scrivere la mia relazione in italiano e non farla tradurre, quindi oggi non posso dare la colpa al solito traduttore di loro, ma tutti gli errori fatti sono i miei. Ma spero di poter farmi lo stesso capire e di non fare la colpa. Vedo anche tanti studenti fra di noi, questa è una cosa che mi piace tanto, perché in Germania ai colleghi gli studenti non ci vanno più dopo la laurea breve, il sistema di Bologna, che non c'è più tempo, e quindi i colleghi si sono spesso trasformati in un cerchio di esperti, anche amici che si raccontano cose che gli danno già, ma spero di non è così, possiamo anche discutere dopo in modo un po' diverso. Allora, i fronti della Germania nell'anno 43, e cominciamo pure con il primo gennaio di 43, all'alba del quarto anno di guerra, quando le forze armate dell'asse si dovevano ritirare sui fronti. Sul piano di guerra pacifico, il Giappone perdeva dopo la sconfitta devastante alle isole di Midway nell'estate di 42 una posizione importante dopo l'alba. In Africa settentrionale le forze italo-tedesche si ritiravano dopo la battaglia perduta di El Alamein dal Egitto in Tunisia. E sul fronte orientale l'Armata Rossa stava per distruggere l'intera area sud dello schieramento tedesco dopo aver cerchiato la sesta armata tedesca del generale Paulus a Stalingrado. Tra l'altro si chiama Paulus e non Juan Paulus, come si legge in quasi tutte le pubblicazioni italiane, ma ovviamente si pensa che un ufficiale tedesco deve essere nobile a tutti i costi. In questa situazione Adolf Hitler in persona arrivò il capo d'anno di 43 due discorsi al popolo tedesco e ai suoi soldati. Discorsi in cui apparivano ben chiari sia gli aspetti centrali della guerra nazista, sia gli aspetti chiari della strategia tedesca per l'anno 43. Nell'appello di Capodanno al popolo tedesco di Hitler si legge, cito: noi siamo, dopo la guerra non inevitabile, determinati a portarla alla fine con tutto il fanatismo del quale noi nazionalsocialisti siamo capaci. Siamo particolarmente disposti a portarla fino ad una decisione definitiva e chiara, in modo che a noi e ai nostri discendenti verrà risparmiato di ripetersi questo disastro nel futuro. Fine della citazione. E nel suo ordine del giorno ai soldati della Wehrmacht, il Führer Kanzler del Reich e comandante supremo dell'esercito ha sottolineato, cito: l'anno 1943 sarà magari pesante, ma certamente non più pesante degli anni scorsi. In questa lotta non ci può essere più nessun compromesso. Credo che serve all'Europa e anche al resto del mondo. Non è uno Stato nel quale ogni 20 o 25 anni le piene ebreo-capitaliste si possono ancora girare contro lo sviluppo pacifico e soprattutto sociale di un mondo nuovo, ma ci serve un periodo di lungo riposo e sviluppo indisturbato. La Germania però ha soprattutto bisogno dei presupposti per stabilire una Volkswirtschaft Volksgemeinschaft Nationalsozialista non più minacciata da fuori. Se questo Stato e anche il resto dell'Europa dispongono allora di una base alimentare sicura e di quelle materie prime senza le quali le culture umane non sono più concepibili oggi, allora le vostre sofferenze, i miei soldati, non saranno in vano. Fine della citazione. Da queste citazioni risultano tre caratteristiche della guerra nazista: il fanatismo disumano, che puntava soprattutto sul trionfo della volontà e non prendeva in considerazione le relazioni delle forze belliche ed economiche; la ideologia razzista, che stigmatizzava soprattutto gli ebrei come capro espiatorio e dichiarava il loro sterminio come uno scopo contato della guerra; e infine la forte volontà di un ordine nuovo nell'Europa e nel Mediterraneo sotto il segno dell'imperialismo germanico. Cercherò nella mia relazione a considerare questi aspetti e metterò quattro punti al centro. Primo punto, la pianificazione strategica della guerra tedesca per l'anno 43. Secondo punto, il passaggio alla guerra totale sia nelle trincee dei fronti che nelle fabbriche del cosiddetto fronte interno. Quarto punto, la conseguente radicalizzazione del regime fascista e il, come quarto punto, il mutato rapporto tra il Reich tedesco e i suoi alleati come l'Italia fascista. Cari colleghi, signore e signore, iniziamo con l'analisi della situazione strategica militare del Reich tedesco e partiamo dalle riflessioni del Comando Supremo della Wehrmacht nel dicembre 1942 sulla condotta della guerra nell'anno successivo. Da punto di partenza ci serve un memorandum sulla situazione strategica elaborato dal Wehrmacht Führungsstab del Comando Supremo della Wehrmacht, che veniva presentato il 10 dicembre 1942 ai comandanti delle singole forze armate ed Adolf Hitler in persona. Questo documento è di particolare importanza per due motivi. In primo luogo, ci conduce direttamente al cuore del tema del nostro convegno e ci permette sia l'indagine delle considerazioni, delle aspettative e dei piani nel vertice militare del Reich, che l'indagine della discrepanza tra il parere della situazione strategica e gli sviluppi effettivi nel corso dell'anno 43. In secondo luogo, questo documento rappresenta infatti l'ultimo tentativo della leadership militare del Reich tedesco per creare una valutazione strategica per tutti i fronti, dal Capo Nord all'Africa settentrionale, e di svilupparne un concetto comune per la condotta della guerra a media scadenza. Quando il generale Alfred Jodl, il capo della Matriuscia, ha dato l'ordine di questo studio, la situazione strategica del Reich tedesco era cambiata su due teatri di guerra in modo eccessivo al svantaggio della Wehrmacht. Sul fronte orientale, la seconda campagna di Hitler contro l'Unione Sovietica alla fine di novembre del 1942 era fallita clamorosamente. Il piano non funzionava di decidere la guerra in Russia attraverso un'offensiva strategica con l'obiettivo di conquistare sia Stalingrado che i campi petroliferi del Caucaso e di portare così a termine ciò che è stato la rovina di 250.000 soldati tedeschi, ma anche la rovina di due armate rumene, di un'armata ungherese e dell'ottava armata italiana. Dell'impatto di questo disastro per il sistema di alleanze e per la politica interna del Reich tedesco parleremo più tardi. Il secondo punto neurologico era il teatro di guerra d'Africa settentrionale, dove si svolgevano alla fine dell'anno 42 due eventi notevoli: l'armata corazzata della tedesca, che aveva potuto fuggire dopo la sconfitta della Main, si ritirava, come già detto, verso la Tunisia, senza la speranza di poter fermare l'avanzata delle truppe britanniche. Allo stesso tempo, nel novembre di 1942, sparcavano truppe americane a Marocco, minacciando le forze armate dell'asse dalle spalle. Con l'operazione Torch, così si chiamava quel sbarco, gli Stati Uniti erano intervenuti per la prima volta con truppe terrestre nel teatro di guerra europeo mediterraneo. Così la situazione dell'asse in Africa settentrionale è diventata quasi insostenibile. Ma non solo. La sconfitta prevedibile delle truppe italo-tedesche causava una forte minaccia permanente per tutto il fianco meridionale dell'asse dalla Sardegna a Creta. Finora la Germania nazista e l'Italia fascista dovevano ottenere un attacco attraverso il Mediterraneo e uno sbarco aliato nell'Europa meridionale. Questa era la situazione quando Alfred Jodl ha formulato tre principi per la pianificazione strategica nell'anno 43. Africa settentrionale dovrebbe essere tenuta in tutte le circostanze per proteggere la fortezza Europa. Se si perdesse l'Africa settentrionale, nonostante tutti gli sforzi, sarebbe da aspettarsi un attacco alla Grecia e alla Creta. Perciò sarebbe urgente stabilire la situazione nei Balcani, che andrebbero pacificati. Sul fronte orientale bisognerebbe arrestare prima l'offensiva sovietica e poi arrivare alle linee solide per poter lanciare un'offensiva di primavera su almeno un tratto di fronte. Questi principi di Dole corrispondevano a due premesse cruciali di Adolf Hitler sulla condotta della guerra. Primo, resistere a tutti i costi, e secondo, nessuna pace separata con l'Unione Sovietica per liberare le forze per la guerra contro le truppe anglosassone del Mediterraneo. Quando il ministro degli affari esteri italiano, Galeazzo Ciano, cercò di fare questa proposta nel dicembre 1942, Hitler rispose che non ci sarebbe alternativa che battere il colosso bolscevico e impedirgli di agire contro l'Europa, di conquistare lo spazio vitale dell'Est e di garantire così l'autarchia e la sicurezza dell'Europa. Questa risposta abbastanza secca, diciamo, non significa altro che Hitler si aggrappò ai suoi principi, ai suoi principali obiettivi di guerra, formulati alla fine del 1940, anche se un crollo militare dell'Unione Sovietica è diventato improbabile e anche se gli alleati avevano assunto l'iniziativa operativa nel Mediterraneo. Il memorandum del Yamaha-Kronstadt del 10 settembre 1942 passa dagli obiettivi strategici e dalla propria valutazione della situazione le conclusioni seguenti. In primo luogo si è ipotizzato che gli angloamericani, in concordanza con il principio Germany First, impegnerebbero nell'anno 43 le loro forze principalmente verso l'Europa, verso il Mediterraneo e non nel Pacifico contro il Giappone. Il primo scopo sarebbe quindi di cacciare le truppe italo-tedesche dall'Africa settentrionale per garantire la sicurezza delle vie di comunicazione sul Mediterraneo e per impedire una volta per tutte attacchi dell'asse contro le posizioni britanniche nel Medio Oriente. Perciò era assolutamente necessario al periodo della Waffenruhe almeno di mantenere la testa di ponte in Tunisia. In secondo luogo, ci si aspettava anche con uno sviluppo della situazione in Africa settentrionale favorevole per le potenze dell'asse, un attacco angloamericano sull'Europa meridionale e la costituzione di un secondo fronte. Il focus di questo attacco era prevista in Grecia, dove si ritenevano deboli soprattutto le posizioni difensive italiane, ma il vero e proprio obiettivo di quell'attacco sarebbe la Romania per tagliare le potenze dell'asse dai loro rifornimenti di Grecia. In questo contesto sarebbero anche prevedibili un'offensiva aerea contro il sud dell'Italia e eventualmente un'azione offensiva contro la Sicilia e contro la Sardegna. Per bloccare queste azioni, il Waffenruhe propose di rafforzare la difesa costiera e di riordinare i Balcani con una mano forte. Una minaccia della Francia nel corso dell'anno 43 è stato ritenuto improbabile, così come un attacco alla terraferma italiana o contro la Norvegia e la Danimarca. La chiave della vittoria c'era per il vertice della Wehrmacht in terzo luogo, ancora sul fronte orientale. Nonostante la difficile situazione a Stalingrado, il Waffenruhe voleva riprendere il più presto possibile l'offensiva con l'obiettivo di Medio Oriente. Ciò prevalerebbe l'Unione Sovietica, le sue più importanti fonti della potenza economica e potrebbe anche aprire la porta per il Medio Oriente e impegnare le forze anglosassoni in questa zona. Inoltre, questa offensiva decisiva nell'Unione Sovietica meridionale andrebbe conquistato Leningrado per portare il più importante pilastro del fronte nord dell'Armata Rossa al collasso. Agli alleati della Germania solo il Giappone aveva una certa importanza per la pianificazione strategica del comando supremo della Wehrmacht. Ma non si pensava di un attacco giapponese contro l'Unione Sovietica, perché non si credeva che una tale offensiva avesse un impatto di rilievo sul fronte orientale. Invece si legge nel memorandum della Waffenruhe: finché l'America e l'Inghilterra dovevano schierare forti truppe contro il Giappone e il Giappone infligge gravi perdite a queste forze, il Giappone adempì il suo compito nel contesto della guerra globale completamente. Un successo delle proprie operazioni, il memorandum chiude, sarebbe solo possibile attraverso la mobilitazione e l'impegno di tutte le forze europee di lavoro nell'anno 43. Questa mobilitazione nelle territorie dominate dalla Germania sarebbe da effettuare, cito, senza riguardo a condizioni politiche. Per quanto riguarda l'Italia, del rapporto fra l'Italia e la Germania, questa frase si dovrebbe rilevare come un vero e proprio cattivo presagio. Tutto sommato, la strategia tedesca per l'anno 43 si distribuiva solo poco rispetto alla strategia per l'anno precedente. Una condotta delle operazioni generalmente difensiva in Africa settentrionale e nel Mediterraneo, allo stesso tempo un tentativo di battere l'Unione Sovietica con un'offensiva decisiva nel sud del fronte orientale per ampliare la base di materie prime delle potenze dell'asse e di privare gli angloamericani dalla loro spada continentale sovietica, per dirlo con le parole di Adolfo. Vale la pena notare tre cose. Primo, che a quanto pare il comando supremo della Wehrmacht nel dicembre 1942 non aveva ancora capito quanto fosse grave la crisi del fronte russo dopo l'accerchiamento della sesta armata a Stalingrado. In secondo luogo, i generali continuarono a sopravvalutare le proprie forze e di sottovalutare quelle dei loro avversari. In terzo luogo, si chiudevano gli occhi davanti al fatto che l'iniziativa strategica era passata irrevocabilmente agli alleati. Alla luce di questi fatti, non è sorprendente che i piani strategici della Wehrmacht per l'anno 43 si rivelavano essere ben lontani dalla realtà. Sul fronte orientale non si potevano salvare le truppe a Stalingrado, ma si poteva almeno fermare l'avanzata dell'Armata Rossa sulle linee dell'inverno 41-42. Invece di fallire l'estate di 43, l'offensiva contro il salienti di fronte di Kursk e così anche il tentativo di riprendere l'iniziativa al fronte orientale. L'ipotesi che si potrebbe tenere almeno la testa di ponte in Africa per poter proteggere il fianco meridionale dell'Europa si è rilevata pure troppo ottimista. Il gruppo d'armate Africa capitolò in maggio 43 250.000 soldati tedeschi e italiani finirono con i prigionieri di guerra. Inoltre, gli alleati rafforzavano durante l'estate dell'anno 43 la guerra aerea contro la Germania e l'Italia, mentre la guerra dei sommergibili dell'Atlantico si sviluppò sempre di più allo svantaggio dell'asse. E quando le truppe britanniche e americane conquistarono la Sicilia, si dimostrò che la fortezza Europa non era per niente insuperabile e che i piani del comando supremo della Wehrmacht per la condotta della guerra dell'anno 43 erano falliti. La situazione del Reich e delle sue forze armate nei primi mesi dell'anno 43 non poteva quindi causare nessuna invidia. Allora, che cosa si dovrebbe fare per non perdere la guerra o per arrivare pure alla cosiddetta vittoria finale in Sieg? Per Hitler le cose erano ben chiare. Una svolta della fortuna bellica a favore della Germania potrebbe essere raggiunta solo se quattro fattori si fossero riuniti. Una condotta bellica più radicale che possibile. La mobilitazione incondizionata del fronte interno. L'impegno degli alleati dell'asse esclusivamente nell'interesse della Germania e, infine, lo sterminio degli ebrei negli occhi di Hitler, i nemici giurati della cosiddetta razza ariana, e l'anello di congiunzione tra il bolscevismo sovietico e la plutocrazia degli anglo. il propagandista più importante di quel messaggio fu José Goebbels, ministro del Reich per la propaganda a partire dal 1933. Goebbels fu il portavoce di una doppia radicalizzazione, una radicalizzazione senza alcun limite della condotta bellica e una radicalizzazione del fronte interno senza riguardo delle perdite. In questo senso, il ministro della propaganda proclamò la guerra totale. La guerra totale che fu anche la risposta del Terzo Reich alla richiesta di una resa incondizionata delle potenze dell'asse. Nella resa incondizionata si parlò per la prima volta nel gennaio 1943, quando Winston Churchill e poi Roosevelt discussero a Casablanca della strategia dell'ATO. Goebbels ricambiò la richiesta della resa incondizionata con la richiesta del popolo tedesco di trasformare la guerra in una guerra totale anche più incondizionata. Il suo intervento a proposito dello Sportpalast di Berlino, 18 febbraio 1943, fu forse il suo capolavoro come propagandista. La sesta armata tedesca sta in grado, è stata appena quasi distrutta quando Goebbels proclamò una nuova forma di guerra, una forma di guerra che dovrebbe superare tutto ciò che esisteva prima. Goebbels dichiarò con Sportpalast, cito: gli inglesi sostengono che il popolo tedesco abbia vinto la fede nella vittoria. Vi chiedo, credete voi, insieme al Führer e a noi, nella vittoria finale e totale del popolo tedesco? Vi chiedo, siete decisi a seguire il Führer nella buona e nella cattiva sorte fino alla vittoria e accettare spontaneamente più pressanti fardelli personali? Secondo, gli inglesi dicono che il popolo tedesco è stanco di combattere. Vi chiedo, siete pronti a seguire il Führer come falangi della patria, seguendo i combattenti e a muovere guerra con determinazione selvaggia, nonostante tutti gli accidenti del fatto finché la vittoria non sarà nostra? Terzo, gli inglesi affermano che il popolo tedesco non vuole più accettare le crescenti richieste del governo di lavorare per la guerra. Vi chiedo, voi del popolo tedesco volete lavorare se il Führer lo ordina 10, 12 o se è necessario 14 ore al giorno e dare tutto per la vittoria? Quarto, gli inglesi dichiarano che il popolo tedesco sta resistendo ai provvedimenti del governo per la guerra totale. Esso non vorrebbe la guerra totale, ma la capitolazione. Vi chiedo, volete la guerra totale? Se necessario, volete una guerra più totale e radicale di quanto mai oggi possiamo neppure immaginare? Il Führer ha ordinato e noi lo seguiremo. In quest'ora di riflessione e meditazione nazionali, noi crediamo saldamente e incrollabilmente nella vittoria. La vediamo davanti a noi, dobbiamo solo afferrarla. Dobbiamo risolverci e subordinarli ad ogni cosa. Questo è il dovere di quest'ora. Che lo sorgo sia, ora dopo lo sorge, in testa scatena. Fine della citazione. Quando Goebbels parlò di guerra totale, non si trattava di parole vuote. Come vedremo, i discorsi della guerra totale avevano un impatto diretto sulla condotta della guerra, sull'organizzazione del fronte interno, sull'intensità della persecuzione degli ebrei e sul trattamento degli alleati della Germania. Cominciamo con uno sguardo allo sport bellico tedesco, soprattutto sui teatri di guerra sull'est dell'Europa e nell'Europa orientale. Qui l'anno 43 fu caratterizzato da tre sviluppi: una strategia militare di tenere duro a qualsiasi prezzo, che fu messa in atto soprattutto dopo la fallita operazione Cittadelle contro i salienti di fronte a Kursk. La guerra di movimento, una volta la grande innovazione della era, fu sostituita dalla strategia dei fronti solidi, delle fortezze e del principio non abbandonare il territorio conquistato, anche se la ritirata sarebbe stata praticamente vantaggiosa. La parola di Hitler fu difendersi fino all'ultimo uomo. Sul campo della politica dell'occupazione si vede una brutalizzazione della guerra contro i movimenti di guerriglia che si sono formate soprattutto in Grecia, nella Jugoslavia di Lisa, in Ucraina e in Russia, come ci ha raccontato Carlo Pescolotti. Le forze tedesche avevano agito sia nei Balcani che nell'Unione Sovietica fino dall'inizio con la massima severità contro ogni forma di resistenza. Tuttavia, non si trattava solo di garantire le conquiste e le truppe degli attacchi dalle spalle. Hitler stesso dichiarò nel luglio 41, dopo l'ordine di Stalin, di continuare la guerra anche dietro le fronte. I russi hanno ora ordinato la guerra partigiana. Questa guerra partigiana ha ancora un certo vantaggio per noi. Ci dà la possibilità di sterminare tutto quello che ci si oppone. Fine della citazione. Nel 1941 e nel 1942 le forze tedesche se la cavavano ancora abbastanza bene con la minaccia partigiana, ma nell'anno 43 la situazione cambiò. L'ascesa dei movimenti di resistenza risultava soprattutto da tre fattori: dal aumentato sostegno della popolazione civile, che soffriva sempre di più dell'occupazione tedesca, dalla professionalizzazione dei movimenti partigiani, che furono condotti e coordinati meglio che prima, e dalla sempre più difficile situazione militare delle forze armate tedesche e dei suoi alleati. La Wehrmacht rispose con azioni militari su larga scala, in cui furono impiegati intere divisioni e corpi d'armata, come ad esempio nelle operazioni della seconda armata corazzata contro i boschi intorno alla città di Bryansk in Bielorussia, che si era sviluppato dal 1942 in poi in una delle più importanti roccaforti dei partigiani nei territori occupati dell'Unione Sovietica. Queste operazioni si svolgevano sempre in un modo simile. La zona attaccata fu circondata e rastrellata sistematicamente. Chi fu incontrato con l'arma in mano, o chi fu solo un sospettoso, doveva fare i conti con la morte. Il resto della popolazione fu catturato e deportato. Tutto quello che fu di valore per le truppe tedesche fu perquisito. Quello che rimaneva fu sistematicamente distrutto per privare i partigiani dei loro mezzi di sussistenza. Così nacque una cosiddetta zona morta dopo l'altra, dove tutti i villaggi furono bruciati e distrutti. Si stima che al lato sovietico nella guerra partigiana circa 500.000 di persone siano morte. Le perdite tedesche si ammontano a solo il 10% di questa cifra. Inoltre, gli esperti, come lo storico Bernard Chiari di Potsdam, assumono che furono rapiti nel corso delle azioni contro i partigiani dell'anno 43 circa 390.000 persone e furono costretti al lavoro forzato in Germania. La terra crociata e le deportazioni non solo furono le caratteristiche di una crudele politica di occupazione, ma furono anche cruciali per il terzo elemento che caratterizza la guerra tedesca dell'anno 43. Questo elemento fu di natura economica ed è tanto da fare con la programmazione della guerra totale dagli operatori. Per aumentare la produzione bellica erano necessarie più materie prime, più alimentari e più operai. I territori occupati dovevano consegnare tutto ciò e furono sfruttati senza riguardi sulle conseguenze per la popolazione civile. La politica economica e l'amministrazione dell'economia locale dei paesi occupati facevano parte della economia del zerstörung, l'economia della distruzione, magistralmente descritta dallo storico Adam Tooze. Inoltre, i rapporti tra il Reich tedesco e i suoi alleati europei, collegati soprattutto attraverso il patto tripartito del settembre 1940, cambiarono significativamente dalla fine dell'anno 42. E questo cambiamento può essere attribuito principalmente a tre sviluppi. In primo luogo è da notare un crescente squilibrio di potere tra la Germania e paesi come la Bulgaria, la Romania, l'Ungheria, ma anche l'Italia. Uno squilibrio di potere che fu determinato sia dal potere militare che politico o economico. In secondo luogo, il rapporto tra il Reich tedesco e i suoi alleati cambiò a causa della situazione militare. La Wehrmacht Hitler doveva reagire durante l'anno 43 sulla pressione sempre più forte delle truppe angloamericane e dell'Armata Rossa. Questa pressione si trasformò in una nuova politica nel confronto degli alleati della Germania, che era caratterizzata dal principio di porre sempre in primo luogo le esigenze del Reich e delle sue forze armate. La guerra dell'Asse nell'anno 43 divenne sempre di più una guerra tedesca. La vertice del Terzo Reich cercò per anni di non danneggiare troppo il prestigio dei loro alleati, una caratteristica della politica estera tedesca applicata in particolare all'Italia e Mussolini. Ma dopo le sconfitte in Africa e nel tratto sud del fronte orientale, non c'era più bisogno di alcun riguardo. La situazione militare creò, al contrario, la possibilità di accusare gli alleati dell'Asse di essere responsabile per le battaglie perdute. I rumeni, gli ungheresi e anche gli italiani furono stigmatizzati come capri espiatori, come traditori ai quali i tedeschi chiedevano obbedienza e fedeltà. Ma quasi tutti gli alleati della Germania avevano la possibilità cambiare rotta e di scendere dalla guerra dell'Asse. Hitler, infatti, aveva scelto normalmente non i movimenti fascisti o autoctoni, ma i rappresentanti delle vecchie elite come garanti dell'alleanza. Basta ricordarsi le morti in Ungheria o di Antonesco a Romania. Queste vecchie elite disponevano di solito di uscite istituzionali che potevano essere aperte per lasciare l'alleanza con la Germania di Hitler. Questo vale anche per l'Italia, dove le forze di associati facevano cadere Mussolini, strumentalizzando la crisi del regime fascista, quando era chiaro che la guerra per l'Italia era persa e che bisognava salvare. I tedeschi però non erano sorpresi, ma si aspettavano nel contrario tali problemi per l'anno 43 e prendevano in considerazione contro misure. Il primo stato che doveva capire che la Germania non sopportava nessun tentativo di lasciare l'alleanza, di scendere dalla guerra, era addirittura l'Italia. Signore e signore, non è necessario in questa sede ripetere gli eventi dopo l'8 settembre 1943, basta ricordare che l'occupazione dell'Italia aveva anche lo scopo di dimostrare agli altri alleati della Germania che cosa sarebbe successo se uno Stato facesse una politica simile all'Italia, una politica che Hitler chiamava tradimento. Da un lato, la rottura dell'asse creò un problema per la Germania, dall'altro lato rendeva più facile la mobilitazione di tutte le forze dei paesi occupati e alleati per gli scopi della Germania. A questa mobilitazione corrispondeva la mobilitazione del fronte interno in Germania. In primo luogo non si trattava di eliminare delle forze antifasciste o di proteggere il regime nazista contro insurrezioni. La mobilitazione del fronte interno sotto il segno della guerra totale serviva soprattutto a aumentare più che possibile la produzione bellica e allo stesso tempo di inviare più soldati sul fronte. Questa quadratura del cerchio ci si aspettava in un luogo da un'istituzione e di un uomo di successo, dal Ministero per gli armamenti e la produzione bellica, che fu creato solo nel 1943 e da Albert Speer, il ministro del comando. Speer si appoggiò principalmente su quattro strumenti: su una stretta centralizzazione nella burocrazia e nell'economia, su priorità chiare della produzione a spese del settore dei beni di consumo, su una dura razionalizzazione per aumentare la produttività e sull'utilizzo di manodopera straniera per sfruttare al massimo la capacità dell'industria tedesca e per poter liberare allo stesso tempo più uomini tedeschi che possibile per il servizio militare. Queste misure furono per lo più già avviate nell'anno 42, ma nell'anno 43 se ne registravano i risultati. Paragonato con le cifre di 1940, l'indice della produzione bellica ha raggiunto il suo massimo solo nel luglio 1944, nonostante la difficile situazione militare e nonostante la campagna di bombardamenti strategici degli alleati contro l'Italia. Questo successo della produzione bellica fu acquistato con il sangue e con il sudore di milioni di lavoratori stranieri. Questi provenivano da tutta l'Europa e furono trattati in un modo molto diverso, anche a causa dell'ideologia razziale nazista. La situazione fu più pesante per i cosiddetti lavoratori dell'Est, Ostarbeiter, e per i prigionieri di guerra sovietici, ai quali furono imposti condizioni di vita e di lavoro assai dure. Lavoratori italiani, però, erano relativamente privilegiati come cittadini di una nazione. furono trattati da allora in poi con grande severità perché furono considerati come traditori. Una sorta ancora peggio ha colpito i soldati disarmati delle forze armate italiane che furono privati dei loro diritti e della Convenzione di Ginevra e che non furono trattati come prigionieri di guerra, ma costretti al lavoro per la Russia America tedesca come internati militari. Tuttavia, chi soffriva di più erano gli ebrei nei campi di concentramento che dovevano lavorare come schiavi. La loro morte faceva addirittura parte del principio sterminio attraverso il lavoro. Questo aspetto si riferisce all'ultimo punto che voglio menzionare brevemente. Nell'anno 43 i tedeschi cercavano non solo di sterminare gli ebrei nella propria sfera di influenza diretta, ma anche nei territori controllati dagli alleati dell'Asse, territori come la Grecia e la Bulgaria. La politica tedesca dello sterminio si radicalizzò di nuovo in un'altra volta e il fatto appariva abbastanza chiaro che i tedeschi intentavano di uccidere anche il minimo ebreo europeo, uguale al fatto che il Reich tedesco dovrebbe vincere la guerra oppure no. Colleghe e colleghi, concludo e cercherò di rispondere a due domande. In primo luogo, perché i tedeschi nell'anno 43 hanno intensificato ancora i loro sforzi bellici, mentre agli altri come l'Italia cercavano di uscire da questa guerra? Una risposta deve tenere presente soprattutto tre punti. Il potere del Reich tedesco, che era ancora abbastanza forte per poter condurre almeno una guerra difensiva contro quasi tutto il mondo. Poi l'ideologia nazista e il mito di Hitler, un mito che non aveva perso tutto il suo fascino per i tedeschi. Infine, i tedeschi temevano la vendetta dei vincitori e sapevano anche perché. Inoltre, mancava una opzione istituzionale di uscita dalla guerra, come esisteva in Italia, e così i tedeschi combattavano fino a 5 minuti dopo mezzogiorno, per usare un proverbio tedesco, combattavano per una causa già persa e davvero criminale. Seconda domanda. Che cosa significava l'anno 43 per il Terzo Reich e per il suo sforzo bellico? A differenza con l'Italia, quest'anno per il Reich non fu un anno della sua vita. La guerra veniva probabilmente già persa nel dicembre 41 con la fallita offensiva della Wehrmacht in Mosca. E se no, la guerra fu decisa in autunno o inverno 42 con le battaglie della Main e di Stalingrado. Tuttavia, durante l'anno 43, la Germania ha perso in modo definitivo l'iniziativa militare. La guerra si trasformò in una guerra difensiva senza strategia che finì solo tra le ordine di Berlino nel maggio 1945. Vi ringrazio per la vostra attenzione. Abbastanza recente, che è stato pubblicato a Mosca del 1991, anche se riguarda un diario dell'assedio di Leningrado, quindi rientra perfettamente nell'anno a cui ci riferiamo. È il diario scritto da una grande scrittrice da noi poco conosciuta, Olga Berloz, che lavorava per la radio di Leningrado e proprio nel gennaio del 1943 legge alla radio durante l'assedio si leggevano molti testi letterari per rafforzare in qualche modo il morale della popolazione. Una delle caratteristiche principali della straordinaria resistenza morale che il popolo di Leningrado riuscì a fare, e lesse un poemetto che aveva scritto l'anno prima, sempre durante l'assedio, che si chiamava Diario di Febbraio. Voglio leggere solo una parte, perché credo sono quattro versi che possono riassumere bene quello che il 43, anche da come è stato raccontato nelle precedenti relazioni, sta diventando la radicalizzazione che nel 1943 la guerra porta con sé. Scriveva la Berloz, ovviamente riferendosi alla situazione di loro assediati a Leningrado. Ma chi come noi ha vissuto mai crederebbe che 100 volte più arduo e valoroso è nell'assedio, accerchiati dai carnefici, belve e mostri non diventare. Ecco, credo che questa forte consapevolezza del fatto che la resistenza principale doveva essere una resistenza morale per contrapporre degli altri valori a quelli che non solo l'aggressore praticava, ma che l'aggressore praticandolo, con il quale l'aggressore praticandolo voleva coinvolgere il resto, credo che questo possa riferirsi bene anche all'idea di resistenza che ci ha raccontato prima Collotti, ma anche per l'opposto al modo in cui la Germania cerca invece di radicalizzare proprio nel momento in cui di fatto c'è una consapevolezza che la vittoria non è più possibile, la situazione complessiva. L'assedio di Leningrado è particolare anche da un punto di vista strettamente militare, anche se è sempre stato visto giustamente meno importante della battaglia di Stalingrado, ma più importante soprattutto dal punto di vista della situazione, perché non solo riuscì a costruire quella forte identità che rese finalmente mise da parte sostanzialmente tutti i dubbi, le reticenze che gran parte della popolazione, come ricordava anche Collotti, aveva nei confronti di Stalin e del governo comunista dell'URSS, in questa decisione patriottica di resistere attorno alla propria identità più profonda. Ma anche sul piano militare, il 1943 vede da parte del comando militare della Sacca sovietica l'idea, da parte del generale Zhukov, di poter chiudere la guerra nel 1943, e ci sarà una serie, proprio a partire da Leningrado, di offensive che cercheranno di sconfiggere tutta l'armata del nord tedesca, e che sono offensive che falliranno periodicamente tutte quante, ma il cui risultato però fu estremamente importante, come ha riassunto, cito lo storico della battaglia di Leningrado più importante, David Glantz, ha scritto: queste coraggiose, costose ma largamente inefficaci offensive indebolirono tuttavia molto l'esercito tedesco, tanto che nell'autunno 1943 esso non era più capace di resistere a un'altra grande offensiva dell'armata rossa. E quindi anche, diciamo, dei fallimenti da un punto di vista strategico militare intanto spingono poi il comando militare sovietico a rivedere i propri piani con l'idea di una guerra tedesca che è lunga, ma comunque permettono e si aggiungono a quanto è stato meglio delineato nella relazione di Schlegel. Su cui io vorrei limitarmi e soffermarmi a richiamare soprattutto due punti importanti. Il discorso della radicalizzazione e, legato a questo, quello del mutamento di rapporti con i paesi alleati. Cioè questa nuova, potremmo chiamarla superegemonia, completa egemonia tedesca nei confronti dei paesi alleati, proprio nel momento in cui paradossalmente si chiede agli alleati un impegno molto più forte, ma glielo si chiede in una posizione ancora più subordinata, e questo probabilmente è anche qualcosa che incide, oltre a tutti gli altri elementi importanti, l'avanzata anglo-americana, eccetera, le spinte di resistenza interna che cominciano, nella logica che porterà poi alla sconfitta, alla caduta del fascismo e alla decisione dell'armistizio in Italia. Contemporaneamente non va dimenticato che l'utilizzo delle forze repressive dei paesi alleati, e l'Italia saranno quelli della, ovviamente, l'Italia occupata ormai militarmente dalla Germania, nella caccia all'ebreo diventa un elemento importante perché coinvolge direttamente le responsabilità di queste dirigenze pubbliche nella Shoah e nell'Olocausto. Il 1915